Oh yeah. Yes, Rebel Ride. This is Graf Riders. Big up all of the crew. Graf Riders. Writing my name. Ezra Pratt. Silence and Attack. Old school. New school. Ascolta. Da New York a Milano, da Roma a Londra. Dopo decenni di cultura che non tramonta, dai quartieri più isolati fino in centro città, dai palazzi alla metro con regolarità. I ragazzi dipingono i muri, pasticciano porte, adornano ogni angolo sfidando la notte. Scrivono i nomi come pinciatori, hanno lettere, simboli o mascherine, con gli spray, pennelli o pennarelli, traccialline. Ingombrano spazio che altrimenti sarebbe di campagne pubblicitarie potenti. Difatti ora i treni con grossi adesivi segnalano gli slogan più incisivi, ma senza pagare non puoi disegnare. Forse per me ci dovrebbero ringraziare, e invece ci perseguono e si vogliono incazzare. Oh, non va. Yeah, imbrattamento. Yeah. Wild style. Style wars. Non è imbrattamento, no, non è una bravata, no. Non è un crimine, arte e divertimento. Mi piace il pioniere Futura 2000, tuttora per il suo design spaziale fa la fila. Mi piace Banksy che denuncia gli errori della società ingiusta. Mi piace Twist per Reasvado fuori di testa. Il maestro Face 2 con lo stile del Bronx, e i crew che in tutta Italia fanno tag e flops. Wild style, sfondi contro il grigio cittadino, coi colori, nomi, stili non si scherza. E te lo dico per primo, lo sai, non è imbrattamento, dai, no. Non scherziamo, Rom, Lava, Vetri, Writers, dai, non scherziamo. Nei musei contemporanei, non scherziamo. Dal design alla moda di domani, non scherziamo. Non è imbrattamento, no, dai, non scherziamo. Lo sai, lo sai. Lo sai. Style. In quantità, in tutto il mondo, viene su. Yeah. Tutti i Graf Riders, lo sai, lo sai. Graf Riders, yeah. Che pedue, che pedue, ne, lo sai. Non è imbrattamento, dai, non scherziamo. I romi, lavavetri, i Riders, non scherziamo. Nei musei contemporanei, non scherziamo. Dal design alla moda di domani, lo sai. Non è imbrattamento, dai, non scherziamo. Rom, lavavetri, i Riders, non scherziamo. Nei musei contemporanei, non scherziamo. Dal design alla moda di domani, non scherziamo.